Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio, una buona giornata a tutti quanti da Deborah Rosciani. Allora, nel mese di febbraio, che si è appena concluso, la domanda dei mutui ipotecari da parte delle famiglie italiane ha registrato, dopo mesi di costante crescita, un segno negativo, meno 2% rispetto allo stesso mese del 2009. Analizzando un po' più nel dettaglio questo dato, emerge come il numero di richieste di mutuo a febbraio scorso sia stato sostanzialmente in linea con quello dello stesso mese del 2008, pensate, 2 anni fa, mentre ha fatto registrare un più 7% rispetto al mese precedente, gennaio 2010. Allora, i dati sono del CRIF, che è il database dove vengono registrate le informazioni creditizie che ci riguardano. È una statistica naturalmente che abbiamo ritenuto di utilizzare come strumento di partenza della nostra trasmissione di questa mattina, perché negli ultimi mesi, con tutti i problemi che hanno riguardato le famiglie in difficoltà con la rata del mutuo, abbiamo invece molto trascurato le famiglie che sarebbero invece pronte a comprare casa e a chiedere il mutuo alla banca, ma non sanno come orientarsi nell'offerta di mercato. Fisso, variabile, misto, con protezione o senza, di che durata, come calcoliamo la rata giusta in relazione alle nostre condizioni finanziarie e a quelle della nostra famiglia. Per cui oggi torniamo a dare anche la nostra assistenza a chi sta facendo la processione fra banche diverse per capire chi di queste sta proponendo le condizioni migliori, ma naturalmente faremo anche un punto sulla moratoria, perché c'è il nostro Maximilian Cellino, che approfitto subito per salutare. Maximilian, ciao, bentornato. Buongiorno a te e agli ascoltatori. Perché proprio Maximilian ha stilato pochi giorni fa per il Sole 24 Ore un primo bilancio sulle richieste arrivate alle banche. Sarebbero circa 5.000, ma forse la stima degli aventi necessità, che era molto più ampia, era stata fatta forse non bene, perché la sanatoria esclude i lavoratori autonomi, per cui qualcuno pensa che le domande arrivate di sospensione del mutuo siano forse poche. Insomma, partiremo magari anche da questo dato per ritornare a ridarvi le condizioni a cui si possono chiedere, appunto, si può chiedere la sospensione del pagamento della rata del mutuo per un anno. E poi parleremo appunto di tutto il mercato nuovo, che cosa conviene fare in questo momento, con Roberto Anedda, direttore marketing di Mutui Online. Bentornato anche a te, Roberto. Grazie. Un buongiorno a tutti. 800 24 00 24, vi ricordo ancora il numero verde per intervenire in diretta, 349 238 6666, il numero invece per i vostri messaggi. Diamo un'occhiata alla borsa, che stamattina è contrastata. C'è segno meno a Parigi e Londra, meno 0,15 meno 0,26%, segno più a Francoforte, più 0,13, ferma sulla parità Piazza Affari sul FTSE MIB, in questo momento appunto inchiodato sullo zero. Oggi le borse sono sostenute dal settore automobilistico. Fiat è il miglior titolo di Milano, guadagna l'1,68%, segue il rialzo di 1,5% di Pirelli, bene le utilities, A2A più 1,27%, bene anche Snam Rete Gas, che ha pubblicato i dati di bilancio questa mattina, titolo in rialzo dell'1,12%, ha fatto sapere anche di aver previsto tra il 2010 e il 2012 una crescita annua del 4% del dividendo distribuito per ogni azione. Terna in rialzo di 1 punto, Exor in rialzo di 1 punto, Luxottica in rialzo di 1 punto. I peggiori titoli sono alcuni del comparto bancario: UbiBanca meno 1,73, Intesa meno 0,7, anche Mondadori perde più di 1 punto e mezzo punto lo perdono Saipem, Bulgari e Prismian. Rapporto euro-dollaro 1,36,63. Lasciamo da parte la borsa, andiamo ai mutui. Da un lato c'è la moratoria varata dall'Associazione Bancaria Italiana, che consente di sospendere il pagamento delle rate del proprio mutuo in determinate circostanze. In poco più di un mese dall'avvio conta oltre 5.000 domande, ancora poche considerando che l'ABI ha inizialmente stimato una platea di circa 90.000-130.000 famiglie interessate. Dall'altro, l'operazione portabilità. In un periodo come quello attuale, con l'Euribor ancora ai minimi storici, sono molti coloro che hanno deciso di surrogare il proprio mutuo per spuntare condizioni migliori, il più delle volte passando dal tasso fisso al variabile, complice il livello minimo dei tassi. Sembrano essere queste, dunque, le principali possibilità per chi è già alle prese con un mutuo. Ma tra offerte e iniziative, il mercato sembra essersi scordato di tutti coloro che si trovano ora a dover scegliere il tipo di mutuo da sottoscrivere. Quali sono attualmente i parametri da valutare? Quali condizioni è possibile spuntare? La preferenza anche per questi primi mesi è andata al variabile, che rappresenta l'80% dei mutui erogati a gennaio. La formula più richiesta sembra essere il cosiddetto variabile con cap, che prevede una sorta di tetto massimo al possibile aumento futuro dei tassi. 800 24 00 24, vi ricordo ancora il nostro numero verde per le vostre domande, per intervenire in diretta, oppure scriveteci al 349 238 6666. Allora, partiamo un po' con i mutui di nuova erogazione, naturalmente per avere qualche indicazione di massima su quello che sta accadendo. Nella prima parte di quest'anno mi sono presa l'ultimo bollettino di mutui online Roberto Anedda. Il primo dato che mi ha stupito particolarmente è che l'importo medio dei nuovi mutui erogati è un bel importo, 136.000 euro e rotti. Sì, tra l'altro è l'importo più elevato che abbiamo registrato ormai da anni, e nonché il più elevato, cioè mai registrato prima, proprio perché negli anni l'importo del mutuo tende sempre ad aumentare, dato che tende ad aumentare il valore dell'immobile sul mercato. In realtà in questi anni i valori degli immobili sono rimasti praticamente fermi, e quindi questo è un elemento ancora più interessante. Sì, perché diciamo che ci sono state delle discese a macchia di leopardo in Italia, però senza drammi, esatto, senza cadute tipo Spagna. Esatto, in Italia. Diciamo che negli ultimi due anni come minimo non c'è stata una dinamica al rialzo dei prezzi immobiliari, e quindi questo aumento d'importo è significativo proprio del momento di mercato, cioè un momento di tassi ai minimi, come diceva anche il servizio introduttivo, che permette a tanti, anche approfittando di soluzioni nuove, diciamo così, di mercato, come certi variabili protetti che si citavano poc'anzi, per poter ottenere un importo più elevato, che i tassi minimi e il variabile, che di per sé è ancora più basso rispetto a quello che può essere un fisso, permette a parità di reddito di ottenere un importo più elevato, e quindi molti stanno man mano sfruttando questa opportunità. Tra l'altro questo è un dato medio nazionale, se andassimo a vedere il dato di Milano, di Roma, gli importi medi sono ancora più elevati, ovviamente perché il costo medio dell'immobile è il suo stesso più elevato, ma soprattutto è una media anche tra surroghe e acquisti, perché quasi la metà delle operazioni di mutuo che si stanno facendo adesso sono per surroga, perché anche chi il mutuo ce l'ha già può approfittare di tassi così bassi per migliorare la propria situazione di mutuo, e dato che con le surroghe si parla di importi residui, mediamente tendono ad essere più bassi rispetto a quelli di un acquisto. Quindi è sicuramente un segnale interessante e positivo. Certo, lasciando da parte le surroghe e le sostituzioni, naturalmente una grande fetta del nuovo erogato va all'acquisto della prima casa. Esattamente. Roberto. Sì, come sempre, storicamente questa è stata negli anni la finalità principale. L'anomalia, se vogliamo, è proprio quella di questi ultimi anni, dove grazie al fatto che la surroga è ormai diventata un'operazione assolutamente accessibile, comunque sempre a costo zero per il cliente, in tanti vi stanno ricorrendo soprattutto adesso, e quindi abbiamo una quota rilevante per questo tipo di operazione. E quindi non è tanto che si fanno meno mutui d'acquisto, sicuramente il mercato è più fermo di prima, quindi un po' meno di mutui d'acquisto si fanno, ma nella composizione percentuale quella che è cresciuta tanto è proprio la surroga, quindi più che un arretramento forte dell'immobiliare si tratta proprio di una presa di coscienza di un numero crescente di famiglie delle opportunità fornite proprio dalla surroga. Adesso andremo anche ai tassi, ma in quanto a durate invece le vostre medie che cosa raccontano? Ma su questo dato l'andamento è abbastanza costante, cioè ormai da diversi anni due terzi, diciamo anche il 70% dei mutui vengono erogati per durate che vanno dai 20 ai 30 anni, quindi le durate più lunghe disponibili. Ci sono anche alcuni casi di istituti che offrono mutui anche fino a 40 anni. Esatto, ma sono assolutamente sconsigliabili, perché il costo è effettivamente eccessivo rispetto alla minima riduzione ulteriore di rata che si ottiene. Ma ne vendono? Molto pochi, proprio per il fatto che mediamente si tende ad allungare la durata per avere una rata più bassa e quindi più compatibile col proprio reddito. Il problema è che però allungando eccessivamente la durata, è vero che si riduce un po' la rata, ma aumenta in maniera spaventosa, è il caso di dirlo, l'importo complessivo di interessi passivi che maturano, perché maturano in 40 per anni, 5 o 10 anni infatti, più oltre ai 20 o 30 già previsti. E in questo caso quindi l'incremento di ulteriore rispetto ai già 30 anni di un mutuo normale, diciamo così, di interessi passivi è onestamente molto gravoso rispetto al minimo vantaggio che si ottiene in termini di riduzione di rate. E questo è un po' un punto generale della situazione. Andando poi alle situazioni specifiche invece che stiamo monitorando da tanti mesi, Maximilian Cellino, la moratoria. Proprio tu sei stato forse l'unico giornalista che ha fatto un primo punto della situazione su come stanno andando le operazioni di richiesta da parte delle famiglie che sono in difficoltà, famiglie all'interno delle quali c'è magari un membro che ha perso il posto di lavoro, c'è una persona che è venuta a mancare all'interno della famiglia, quindi è mancata una fetta di reddito, per cui famiglie che non riescono ad onorare la rata del mutuo. 5.000 fino adesso le richieste arrivate agli sportelli bancari. La platea potenzialmente interessata, lo dicevamo nella nostra scheda, è di, secondo delle stime iniziali, 90-130.000 famiglie, ma queste 5.000 sono ben distanti da questo obiettivo, target, come vogliamo indicarlo. Come viene interpretato questa cifra? Intanto sono un po' più di 5.000, perché nel frattempo poi abbiamo allargato un po' la platea delle banche, si è aggiunta proprio in questi giorni, sono giunti i dati di Montepaschi, sono altre 1.000 domande dall'inizio febbraio, per cui si arriva quasi a 6.000 per un bacino di utenza, diciamo, dell'80% dei mutui in Italia, per cui possiamo fare a spanne una stima che saranno, potrebbero essere anche 7.000, voglio dire. Ma non cambia la sostanza del discorso che facevamo in precedenza. L'ABI aveva dato delle stime potenziali, di potenziali interessati, molto più elevata. Però no, queste 6-7 mila sono domande arrivate alla banca, soddisfatte. Cioè, non ancora soddisfatte, non perché detto, ricordiamo che non è detto, appunto, ricordiamo che ci sono dei tempi tecnici. Perché la banca deve prima raccogliere il materiale, deve vedere se la persona ha veramente diritto a questa sospensione, e poi ha ancora 45 giorni lavorativi di tempo per avviare tutte le procedure della sospensione una volta che ha accettato. Però ecco, attenzione, sì, c'è una forte sproporzione tra i 90.000, tra i 90 e i 130.000, la fascia che diceva l'ABI, e quelli che effettivamente hanno fatto richiesta adesso. Non va giudicata necessariamente come un male, perché bisogna dire che intanto molte banche avevano già avviato delle operazioni di sospensione in precedenza. Infatti guardiamola in positivo, speriamo che non ci siano tutte queste famiglie e in io giro. Credo che a spanne, anche qui è sempre difficile dirlo, ma nell'ultimo anno, nel 2009, quando non c'era ancora l'ABI, che l'accordo ABI consumatori, piano famiglie, siano state sospensioni penso attorno alle 20-30.000 per 20-30.000 famiglie. Questo è il primo dato. Il secondo dato è che, noi l'abbiamo detto più volte, non è detto che questa sospensione sia poi alla fine conveniente per la persona. È chiaro che se la famiglia è proprio in difficoltà estrema, questa è una buona soluzione. Se non è in difficoltà estrema, perché magari la persona è soltanto in cassa integrazione, percepisce, riesce a pagare la rata, è meglio. Abbiamo sempre detto che è meglio pagare la rata. Tirare un po' la cinghia, però. E c'è poi un altro dato di fatto. Che probabilmente si è fatto un gran battage pubblicitario, ma non tutti sono ancora completamente informati di questa opportunità. E poi la cosa interessante, purtroppo, che ci hanno segnalato molte banche, è che molte persone sono presentate lì, hanno presentato la loro domanda, che è incompleta. Perché? Allora, perché? Lo scopriamo nella seconda parte di Salvadanaio. C'è anche tutta la partita dei lavoratori autonomi che non possono chiedere la sospensione del mutuo. Io lo cito perché è un problema che abbiamo sollevato più volte da questi microfoni con tutte le associazioni dei consumatori che hanno dato grande battaglia anche su questo, ma che non sono riusciti a spuntarla per far ottenere le medesime condizioni anche a questa fascia di lavoratori. Stamattina una banca grande, Intesa San Paolo, ha fatto sapere invece che estende ai professionisti anche il rinvio delle rate sui mutui e i leasing. Non vi distraete perché stiamo ricominciando. Roberto Anedda, direttore marketing di Mutui Online, Maximilian Cellino, collega delle Sole 24 Ore, stavo per dire di Plus 24, ma abbiamo avuto uno spostamento redazionale, ma questo ai nostri ascoltatori non interessa. Detto questo, comunque rimane sempre uno dei nostri riferimenti per l'ambito mutui e soprattutto in questo periodo per la cosiddetta moratoria per le famiglie. E cioè la possibilità che viene data alle famiglie che sono in difficoltà in questo momento perché hanno avuto una variazione della propria condizione economica, viene data appunto questa opportunità di sospendere il pagamento della rata del mutuo per un anno. E però, insomma, pur avendo aderito quasi tutto il sistema bancario, praticamente tutto, alle condizioni generali, qualche banca ha proposto anche delle condizioni migliorative, e però c'è ancora un po' di confusione su questo. Allora, sentiamo qualche ascoltatore. Vi ricordo che stamattina parliamo anche dei mutui di nuova erogazione. inflazione. Con Roberta Nedda abbiamo capito qual è l'importo medio che in questo momento viene chiesto dalle famiglie italiane. Non abbiamo ancora affrontato il tema tassi di interesse, l'abbiamo parzialmente citato, ovviamente adesso il tasso variabile è a condizioni eccezionali, e però attenzione anche a sottoscriverlo, perché se lo fate al limite della rata, al limite ovviamente delle vostre capacità reddituali, non appena i tassi ricominceranno a salire, poi anche questa comincerà a crescere, quindi bisogna vedere fino a quanto per voi sarà sostenibile. Parleremo anche di questo tra poco. Intanto Diego dalla provincia di Forlì Cesena. Diego, buongiorno. Salve, buongiorno. Ci dica. Salve, io ho perso il lavoro qualche mese fa e poi adesso l'ha perso anche mia moglie il lavoro. Siamo andati in banca per chiedere se era possibile sospendere la quota capitale. Uh-huh. E se sospendere tutto. Hanno detto che invece possiamo sospendere solo la quota capitale, non gli interessa. Che banca è, Diego? È la BNL. Mm. E poi niente, tra l'altro avevamo chiesto già ancora prima se potevamo rinegoziare il mutuo, mm-hmm, ma cioè, con la stessa banca, ma ci avevano detto di no, perché il mutuo è intestato a mia moglie, che adesso aveva un lavoro part time e quindi non riusciva più, secondo loro, a pagare la rata. Guarda, io Diego, aspetti lì Diego, no? Perché ho un po' la sensazione che sia proprio una questione di cattiva volontà da parte di questo direttore, perché da quello che mi risulta questa banca a situazioni di grossa difficoltà come questa non mi pare che abbia in altre circostanze detto di no. Io poi magari li sentirò, anche se lei Diego avesse anche la pazienza di scriverci, perché siamo anche in ottimi rapporti con loro e ci aiutano quando abbiamo bisogno e quando sottoponiamo casi problematici. Maximilian, però intanto, primo punto, la banca propone solo la sospensione della quota capitale. Sì, adesso non ricordo esattamente i termini delle singole banche, no, però certo, ci sono queste due, mi fido di quello che dice l'ascoltatore anche perché è andato di persona a verificare, ci sono due possibilità per le banche, sospendere o l'intera rata che è composta da una quota capitale, cioè quello che via via abbiamo preso a prestito e noi rendiamo, e da una quota di interessi. Oppure si può sospendere la sola quota capitale, restano da pagare gli interessi che, ricordiamo, nel periodo di sospensione maturano. Adesso cosa vuol dire? Che la sospensione, durante il periodo di sospensione, in questo caso se viene sospesa la sola quota capitale, come diceva Diego, qualcosa va pagato, e questo qualcosa varia ovviamente a seconda della durata del mutuo e seconda soprattutto di quanto manca alla fine del mutuo, nel senso che se il mutuo è nei primi anni di vita, come per molte persone, soprattutto quelle in difficoltà, la quota interessi è molto elevata. Si può dare a spanne dei numeri, può darsi che un mutuo con rata a 900 euro abbia una quota interessi di 700 euro. Infatti, quindi se mi sospendi solo la quota capitale, se è un mutuo, è zero. Se è un mutuo magari a 30 anni acceso l'anno scorso, per esempio. Infatti. E quindi in questo caso, come giustamente diceva Diego, sì, grazie tante, però probabilmente a me non serve, avrei proprio bisogno di una sospensione. Ma infatti poi mi viene anche un po' da ridere questo atteggiamento folle della banca, che vede, che mi sembra che sia piuttosto evidente una situazione di difficoltà, Roberto Anedda, e non voglia sospendere, voglio che interesse ha anche a mettersi adesso ad imbarcarsi nell'operazione di ipoteca della casa, voglio dire, cioè, no, beh, tra l'altro, qual è il suggerimento che si può dare? Tra l'altro anche il fatto di sospendere eventualmente anche l'intera rata, cioè, ricordiamo che nella moratoria la banca non è che poi questi soldi li perde, perché ci sono state anche polemiche sul fatto che si tratta solo di una dilazione di pagamento, esatto, e ci sarà poi il recupero di tutte le somme, quindi la moratoria dovrebbe servire a questo, casi specifici in cui uno perde il lavoro e quindi ha bisogno di un tot di tempo per riorganizzarsi, avere un minimo di respiro, onestamente sembra un atteggiamento un po' strano e insomma, spero che voi possiate sentire BNL su questo caso. Due persone perché, nella stessa famiglia perdono il lavoro e gli sospendi il mutuo, mi sembra assurdo, anche, poi sarà un ragionamento anche fin troppo lineare, però abbiamo sempre detto che il fatto anche di sospendere la sola quota capitale può avere una ragione, perché alcune persone possono essere in grado di pagare anche gli interessi. Ricordiamo che gli interessi, se non vengono pagati adesso, vengono recuperati alla fine del momento della sospensione e potrebbero mettere ancora una volta in difficoltà la persona che chiede la sospensione. Però questo non sarebbe, mi sembrava il caso. Sarebbe il caso, e alcune banche lo fanno, di garantire entrambe le vie e di scegliere di concordarle con i mutuatari. Comunque, detto questo, nonostante credo, almeno, anche se magari la banca in termini generali impartisce determinate direttive a tutte le filiali, io non credo che la buona volontà di un direttore di una filiale possa allargare un po' i parametri di disponibilità. Sentiamo Alessandro da Torino. Sì, pronto. Alessandro, buongiorno. Buongiorno e grazie per avermi fatto partecipare. Grazie a lei. Sì, io ho una domanda che comunque è scaturito un po' dalla mia situazione. Sono un ex lavoratore autonomo che purtroppo è stato costretto a chiudere la partita IVA a dicembre 2009 e quindi ho provato a chiedere anch'io la sospensione alla banca Unicredit. La direttrice mi ha fatto notare che non c'è scritto questa particolarità, questa particolare categoria nel loro... Sì, è vero Alessandro, sì. Però... Però mi ha accettato lo stesso la domanda, quindi adesso sono in attesa un attimino della risposta. Voglio se posso dire magari a qualcun altro, che mi sono permesso anche di scrivere alle associazioni che hanno sottoscritto l'accordo, sì, alcune delle quali... mi si sono, come dire, si sono offerte di rappresentarmi eventualmente la banca decidesse di no per qualche, non so, per un'azione di pressione o fare qualcos'altro. Alessandro, qualcosa effettivamente è vero, perché loro hanno chiesto in questa moratoria anche di estenderla ai lavoratori autonomi, non ci sono riusciti, era stato piuttosto complicato. Fabio Picciolini e Maria Stella Anastasi, che sono i due riferimenti nostri per questa situazione, ci hanno spiegato spesso le motivazioni per cui non è stato possibile. Detto questo, però, la banca individualmente può venire incontro anche al lavoratore autonomo. Volevo tornare a Maximilian, perché volevi dirmi qualcosa sulla banca citata dall'ascoltatore? No, non ha citato la banca, però sì, è un caso molto simile, me l'ero persa, scusate, sì. Casi come quelli di Alessandro ne sono giunti molti, anche di segnalazioni a Mutui 24 su www.sole24ore.com. E questo dei lavoratori autonomi è un problema, perché appunto ne abbiamo parlato molto in passato. Il problema era che anche per certi versi è anche abbastanza difficile capire la riduzione delle attività per un lavoratore autonomo. Alessandro dice che ha chiuso la partita IVA, l'ABI controbatteva, mi ricordo allora, sì. E chi mi garantisce che una persona non abbia riaperto una partita IVA subito dopo? No, tra l'altro c'è anche la questione di Intesa San Paolo, che dicevo stamattina, me lo faceva notare Roberto Anedda, che ha dato la sua disponibilità ad estendere anche ai professionisti il rinvio delle rate, però Intesa dice questa iniziativa è riservata ai professionisti che presentino una situazione economica, finanziaria ed organizzativa che possa garantire la continuità dell'attività. E anche lì bisognerà vedere come faranno a valutarla. Sì, credo che questo francamente sia un primo comunicato, bisognerà poi andare a fondo per vedere in cosa sarà proprio effettivamente questa possibilità offerta. E infatti loro stanno facendo anche una grande campagna pubblicitaria, per cui speriamo che a tutto questo seguano poi azioni concrete. Detto questo, il discorso è sempre il solito, cioè vale la flessibilità, quella che noi ci auguriamo sempre, che purtroppo però non vediamo da parte delle banche, nell'aiutare le persone che sono veramente in difficoltà. Infatti. Un cliente in difficoltà è un problema anche per la banca, ricordiamo. Allora, i mutui, Roberto e Nedda, mi vesto dal vostro profilo tipo. Sono un impiegato di 35 anni, magari, residente a Milano, e qui ci siamo. Mutuo acquisto, vengo da voi, cerco attraverso di voi appunto la miglior condizione possibile sul mercato per l'acquisto della prima casa. Il valore dell'immobile che ho scelto è di 200.000 euro, chiedo un importo di 100.000 euro. Qual è il miglior tasso che posso spuntare in questo momento, come fisso e come variabile? I variabili partono praticamente da poco sopra l'1,5%, mentre sui migliori fissi siamo... ovviamente a seconda delle durate, ma comunque addirittura sotto il 5%, di qualche decimo. Le migliori offerte in questo momento partono proprio da questi livelli, proprio perché nel tempo, comunque, soprattutto in quest'ultimo anno, in questi ultimi 12 mesi trascorsi, sempre più istituti hanno recuperato una certa operatività e soprattutto competitività sul mercato mutui, dopo quella che era stata un po' la frenata e l'irrigidimento del 2008 e inizio 2009, e in più perdurando questo clima di tassi ai minimi storici, ormai da quasi un anno essi stessi, ovviamente insomma, è più facile, tra virgolette, per le banche poter offrire mutui che obiettivamente siano molto appetibili. In più, come citavamo anche all'inizio, da diverso tempo hanno preso piede le offerte anche di prodotti non più come dire, standard, mm-hmm. cioè il fisso, il variabile, non classici. Non ci sono più queste categorie rigide. Esatto. Ma anche cioè non delle... ci sono ancora, non ci sono solo queste. Non ci sono solo quelli, cioè diverse banche si sono attrezzate per offrire, e si stanno tuttora attrezzando, per offrire prodotti che siano delle varianti un po' più evolute, ma che permettano di dare dei vantaggi ulteriori al cliente. E sicuramente la formula che da questo punto di vista ha avuto più successo è quella del tasso variabile con il cosiddetto mm-hmm. cap rate. Come al solito, una parola inglese che però, non si riesce mai a sostituire. Esatto. Che cosa vuol dire? Tetto massimo, cioè un variabile che certo può variare nel tempo, ma ha già predeterminato un valore massimo che il tasso potrà assumere in futuro, qualunque sia l'andamento dei tassi. Per cui si ha già la garanzia che non si pagherà mai più. Quindi se certo anche dovessimo livello. Vedere Euribor schizofrenici come quelli di un anno e mezzo fa, esatto. Abbiamo comunque, la garanzia che il esatto, nostro tasso non finisce su quei livelli. Il cliente che abbia sottoscritto un mutuo di quel tipo non pagherà un tasso superiore a quello predeterminato, che rimane poi lo stesso per tutta la durata mm-hmm. del mutuo, quindi sempre valido. Le migliori offerte in questo momento fissano, in questo momento in realtà già da diverso tempo, fissano questo limite al 5,5%, quindi tutto sommato abbastanza mm-hmm. vicino al a quello tasso che fisso è un massimo, buon tasso fisso disponibile in questo momento. Infatti. Roberto, c'è Domenico che chiede: ho un mutuo residuo di 12 anni, pago attualmente 400 euro al mese, mi converrebbe passare adesso dal tasso fisso al... Domenico si è sbagliato, c'è scritto al mobile, credo intendesse il variabile. Però allora qui ci sono un po' di cose da considerare. Intanto chissà quanti interessi ha già versato, per cui passando al variabile di quanto si abbatterebbe la rata? Sì, bisogna capire effettivamente se 12 sono gli anni residui, quanti ne abbia già pagati. Ne ad esempio se fosse un mutuo di 15 anni, ancora certo, sicuramente ancora può avere una buona convenienza. Se invece 20, fosse stato di 20 o di 30 e quindi è già nella fase in cui paga più capitale che difficile altro, difficile che sia di 30, perché non credo che lui gliene rimangono 12, quindi lo avrebbe dovuto stipulare 18 anni fa. No, infatti, esatto. E quindi non ricordo. C'erano assolutamente. Faccio un'ipotesi per assurdo, ma mi sembra difficile. Ammettiamo che sia di 20. Fosse di 20, diciamo che si avvicina già alla metà della vita del mutuo, quindi l'effetto sulla rata sarebbe parziale, limitato. Perché, purtroppo, tra virgolette, i primi anni del mutuo, cioè la prima parte del mutuo, è quella in cui si paga una gran parte di interessi. Però quindi... se la domanda è questa di Domenico, che vada in banca e si faccia fare due simulazioni. Sì, ma no? Visto che siamo qua, senza no, neanche certo, andare in banca. No, per dire, perché basta. Non è che la convenienza sta solo nel passaggio al tasso, bisogna valutare effettivamente la rata, perché se gli diminuisce di 20 euro, poi magari per lui è una cifra di assoluto rispetto e gli conviene fare no, in anche generale, questo abbattimento. Per valutare la convenienza o meno di un cambiamento occorre prendere il proprio capitale residuo, farsi una simulazione che può fare tranquillamente anche su internet, mm-hmm. senza fare la processione che dicevamo prima tra sì. le banche, vedere... con quel capitale residuo che i mutui di surroga ci sono a disposizione, quindi quale rata verrebbe fuori, ed eventualmente scegliersi anche lui la durata, perché potrebbe anche decidere di accorciare la durata residua in modo che paga ancora meno interessi e chiude il mutuo prima della scadenza, o viceversa in determinati casi, non dico che debba andare bene per Domenico, ma certo. come consiglio generale valutare anche un'estensione della durata residua, perché così è vero che pagherò un pochino più di interessi, però riduco la mia rata, la riporto a un... E sono un po' più sereno. Esatto, a un importo come... più gestibile nel medio termine. È un aspetto inquantificabile dal punto di vista esatto, economico. Esatto, su questo inevitabilmente ognuno deve valutare secondo la sua propria personale predisposizione. Infatti c'è Alex da Senigallia che ci scrive appunto: tanto per valutare effettivamente la convenienza del passaggio adesso dal fisso al variabile, aveva un mutuo, pagava 606 euro di rata al mese, ha cambiato con il variabile, con cap, adesso ne paga 3,50 e dice sono felice. Effettivamente è vero, però ricordatevi che i tassi poi riprendono a salire, non è che la situazione su questi livelli rimarrà no, certo, l'importante è che chi già aveva un fisso e che quindi sta già pagando una rata elevata è già predisposto a pagare eventualmente quella rata. Mm-hmm. Il passaggio a un variabile, ovviamente in questo caso con un cap, dà il vantaggio per un certo periodo di tempo di avere una rata più bassa e quindi di risparmiare, ed eventualmente un domani tornare ad un importo di rata più vicino a quello mm-hmm. che pagava prima. Però se non altro le sue finanze, la sua situazione personale già gli permettevano di pagare eventualmente anche quella rata, quindi è già pronto a ripagarla in futuro. Allora, ci rimangono 3 minuti, un paio di domande di 2 ascoltatrici, se riesco. Cominciamo con Alessandra da Milano. Alessandra, buongiorno. Buongiorno. Io le volevo domandare questo. Io ho fatto una domanda di moratoria per la sospensione della rata del mutuo, sì, e la banca me l'ha accolta e non mi ha risposto. Sono passati adesso oltre tre settimane. Come fa a saperlo che ha accolto la sua richiesta? No, nel senso che ha accolto, nel senso che l'ha ricevuta, diciamo. Ah, ecco. Sì, e poi non mi ha fatto sapere niente. Io mi sono messa in contatto con la WSDAF e mi hanno detto che loro sono tenuti a rispondere entro 15 giorni in caso di risposta negativa. Lavorativi, 5, 10, 15, 3 settimane. Maximilian, che tempi ci sono? Sì, sono tenuti a rispondere entro 15 giorni in caso di... In caso di no? Esatto, in caso di no. In caso... Io spero anche in caso di... Io mi augurerei anche qui che in caso di risposta positiva dessero comunque una comunicazione formale. Dopodiché però dal momento dell'accettazione possono passare fino a 45 giorni lavorativi, che sono tanti, quanto sono? 3 mesi? Sì, lavorativi sì. Sono alla fine 9 settimane, esatto, sono più di sono alla fine 2 mesi abbondanti. 2 mesi abbondanti prima che la banca poi applichi materialmente, esatto, la sospensione. Ricordiamo poi che in generale quando si calcolano le rate si calcolano magari nel mese, adesso mettiamo a metà marzo, calcoliamo la rata che la persona andrà a pagare di aprile, quindi c'è il primo di aprile in generale, infatti, funziona così. Devo soffrire ancora il primo di aprile, per un paio se di non, mesi. Se non se è mensile, se è trimestrale addirittura dopo, per cui da questo punto di vista i tempi ahimè possono anche allungarsi. Certo, sarebbe opportuno che almeno una risposta sì, te l'abbiamo accettata, la dessero. Insista Alessandra. Allora, io non riesco a far intervenire Anna da Torino, leggo ai nostri ospiti la domanda. Anna voleva sapere, ha chiesto informazioni sulla surroga. In banca le hanno detto che se vuole spostare un mutuo, per esempio, di 7 anni, può farlo in 5 o 10. Maximilian, se è una surroga deve essere... Ma altrimenti sarebbe una sostituzione, se è una surroga è l'identico mutuo che si sposta. Attenzione. Ce la fai in 20 secondi? Allora, sì, surroga, diciamo che la banca entrante può fare le condizioni che vuole, se ne vuole una che gli dà un mutuo da 7 anni la deve trovare, e non è semplice, ecco, questo. La banca che subentra può fare le condizioni, sì, l'unica Roberto, cosa che rimane fissa è l'importo residuo, esatto, però poi le durate possono quindi la surroga trasferisce identicamente l'importo residuo ma non nelle altre la durata condizioni. Si può allungare e accorciare, è chiaro che loro hanno prodotti da 5 da 10 anni, da 7 non ce l'hanno, non hanno la buona volontà di farli. Qualcuna c'è, ma non tutte le banche applicano effettivamente la possibilità di avere la durata che si vuole, diciamo così, quindi bisogna proprio cercarla. Benissimo, allora ci sono tante domande ovviamente di tanti ascoltatori in sospeso, non riusciamo a sentirli. Scriveteci se avete tempo, io come sempre girerò le vostre domande a Roberta Nedda, Maximilian Cellino e ai nostri altri interlocutori su questi argomenti, cercheremo di darvi una risposta. In caso più difficile, nei casi più difficili ci rivolgiamo direttamente anche alle banche, come abbiamo fatto molto spesso, e molto spesso ci hanno aiutato a risolvere i casi piuttosto problematici. Grazie a tutti, grazie Roberto, grazie Maximilian, noi torniamo domani, buona giornata.